paranoia stavo sempre in mezzo a guai. So che non sono solo, qualcuno là fuori capisce bene quello che intendo, se no non ci siamo. Dici di no, allora vorrei sapere tu che fai. Non sopporto la gente che si dice sempre mai. So che non sono solo, qualcuno là fuori capisce bene quello che intendo, se no non ci siamo. Dici di no, allora vorrei sapere tu che fai. Ma cosa fate oggi? Io mi annoio, io mi finisco tutta la serie. Oppure dormo, oppure vedo qualcuno che appoggi sto mio sogno. Oppure torno a sognare da solo, o da sbronzo. Mi sveglio male la mattina, yeah. Non voglio vedere para, e quindi lasciando ra, ra. E quindi lasciando ra, ra, ra. E ti mando due kiss, ti mando due kiss, ti rimando due kiss. Ma rispondi please, ok te la tiri dai fatti due giri. Sto sulla luna, non fate i bambini, non fate i carini. Se poi siete squali, te poti reagire da amici e vicini. Non sopporto la noia, stavo sempre in mezzo a guai. So che non sono solo, qualcuno là fuori capisce bene quello che intendo, se no non ci siamo. Dici di no, allora vorrei sapere tu che fai. Non sopporto la gente che si dice sempre mai. So che non sono solo, qualcuno là fuori capisce bene quello che intendo, se no non ci siamo. Dici di no, allora vorrei sapere tu che fai. Anche questa notte faccio guai. Non mi importa se mi chiedi come voglio farli. Sopra il palco casca l'inferno. Anzi il collo non si toglie, sembra una sciarpa d'inverno. E volo su, amo il blu. Sguardo in su, come parla sia mio nonno che ci faccio su. Quindi faccio su. La gente che giura alla fine sta mentendo. Lo senti cosa dici? No, non siamo amici. Se dici che il mondo è un posto dove star divisi, per me sei solo noia. L'odio costa come Goya. Ti condanni come prive, cache, pace. Te se sei te, fatto con me. Per eccitare te, per avere eccitare me con gli altri. E c'è un peso sullo stomaco come quando alleno il diaframma. Credo solo a mia mamma. Se pensi a tutto quello che è successo fino ad ora, viviamo poco più di una farfalla. Non sopporto la noia, stavo sempre in mezzo ai guai. So che non sono solo, qualcuno là fuori capisce bene quello che intendo, se no non ci siamo.